Ma mi è sembrata più che altro una zitella isterica in crisi d'astinenza. Il livello della dialettica politica espressa da Pulvirenti si qualifica da sé, non devo aggiungere altro perché siamo tutti capaci di qualificare questa cosa. Le scuse le posso anche ricevere, però l'umiliazione è stata tanta, ho subito tanti danni, insomma non lo so sinceramente se potrei accettare le sue scuse. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Con l'orgoglio di questa splendida semifinale mondiale, cross di Domenghini al centro dell'area, lungo per tutti e se ne impossessa Schutz, 35 secondi ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di due ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare, l'Italia è in finale della Coppa Rimè. Sembrava Italia-Germania del Messico, del Mondiale del Messico, due squadre che hanno giocato entrambe per vincere con grande coraggio, con un'ottima tecnica, pochissimi passaggi sbagliati. È chiaro che quando hai l'occasione per vincere la partita, poi poco dopo prendi il gol che ti fa perdere la partita, c'è un grande rammarico per i miei giocatori perché onestamente meritavano molto di più in questa partita. Ebbene sì, siamo in semifinale, abbiamo battuto il Giappone 4-3 come contro la Germania, Città del Messico nel 1970, la notte della Zeca. Ma per favore nessuno bestemmi, perché di simile a quella notte c'è stato solo il caldo soffocante che, parole di Prandelli, ha piegato le gambe degli azzurri. È stata una vera sofferenza e non so voi, ma io ho i brividi a immaginare Neymar sabato sera in mezzo alla difesa italiana, che anche questa notte contro il Giappone ha fatto regali a piene mani. Tutti convocati 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 se volete mandare i vostri sms, oppure potete scriverci anche su Twitter @ tutti convocati. Chiamate, scrivete per parlare della nazionale di questa notte, per parlare del calciomercato, oggi è il giorno della risoluzione delle comproprietà, oppure per parlare anche dell'ottavo scudetto di Siena, il settimo consecutivo, e lo faremo con coach Dan Peterson. Io intanto saluto Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, direttore. Davvero è blasfemo accostare la notte della Zeca, quel 4-3, a quello che abbiamo visto questa notte, con questa vittoria di cui portiamo via con soddisfazione soltanto il risultato, il fatto che ci qualifica alla semifinale? Beh, direi che non ci sono gradi di parentela neppure lontani tra le due partite, le due situazioni. Allora c'era da godere, da essere orgogliosi. Oggi, anzi ieri sera, c'era da calare un velo pietoso, insomma, ci hanno fatti morbidi, ci hanno risparmiato, abbiamo vinto, ma senza meritarlo, direi, con degli errori di gruppo, degli errori soggettivi, a cominciare dal commissario tecnico, che ad esempio non aveva percepito lo stato di ambascio in cui versava Pirlo, che ormai camminava nell'ultima mezz'ora, lo ha comunque tenuto in campo, non considerando anche poi la partita col Brasile dove dovrà rifarlo rigiocare e mettendo un po' in difficoltà tutta la squadra. Insomma, noi siamo questi, ci siamo presentati alla Confederation Cup in condizioni fisiche precarie, quattro anni fa abbiamo preso una ramazzata storica, questa volta accediamo alla semifinale, ma ci accediamo insomma un po' così, avendo battuto due squadre non straordinarie, avendo sofferto contro il Giappone. Prendiamo e portiamo a casa, è tutto di guadagnato. Sì, se c'è un lato positivo è che dal punto di vista del fattore C siamo ben messi, speriamo fra un anno, quando sperabilmente torneremo in Brasile per il Mondiale, che da questo punto di vista non si sia perso nulla, perché se ci va sempre come ci è andata questa notte contro il Giappone, possiamo anche ambire a grandi risultati. Il Giappone, che ha preso due traverse, un palo, ha letteralmente dominato per oltre un'ora e meritava certamente un risultato diverso. Volevo capire, direttore, cosa ne pensi della giustificazione che che ha dato questa notte Prandelli dopo la partita, ha parlato del caldo soffocante, dell'umidità che taglia le gambe. La mia considerazione è che il caldo e l'umidità c'erano anche per i giapponesi che viaggiavano al doppio della nostra velocità, e la seconda considerazione è che non è una scoperta che in Brasile ci siano queste temperature, e allora meno male che siamo andati a fare la Confederations, altrimenti probabilmente lo avremmo scoperto tra un anno. Sì, quando abbiamo fatto la Confederation in Sudafrica faceva un freddo cane, eppure ci hanno legnato lo stesso. Io credo che siano giustificazioni di comodo, io credo che non pensasse Prandelli, che comunque è un allenatore molto realista, a una simile debacle fisica della squadra, perché insomma a livello tecnico, anche se i giapponesi non sono tutt'altro che sprovveduti, ma fanno del dinamismo, della corsa, del poldismo probabilmente la loro arma migliore, insomma a livello tecnico l'Italia qualcosa di più è, però se non si corre ormai nel calcio moderno e si passeggia solamente, si va incontro a brutte figure, e ieri sera ci siamo andati molto ma molto vicino. Ripeto, l'Italia si è presentata in Brasile per la Confederation in condizioni precarie, siccome il blocco su cui si fonda la nazionale è il blocco juventino, beh, tutti hanno visto come ha finito la stagione la Juventus, insomma un po' sulle ginocchia, e non è che tre settimane dopo questi giocatori possono resuscitare. Io ho visto fare degli errori ad esempio da Barzagli, soprattutto nella prima partita, che non gli ho visto fare quest'anno con la Juventus. Ho visto sbagliare anche Chiellini, insomma Marchisio non è quasi mai pervenuto, insomma Pirlo ha giocato bene una partita, la prima, anche perché era stato lasciato, poi è andato nettamente abbastanza in difficoltà libero dai meticani, poi è andato in difficoltà fisica, cioè perché non riusciva a correre e aveva sempre un uomo addosso che non lasciava ragionare. Insomma, sono degli handicap fisici abbastanza evidenti. È chiaro che noi dobbiamo ragionare in prospettiva di qui a un anno. È certo che se noi ci presentiamo tra un anno in queste stesse condizioni andremo incontro a delle delusioni, però io credo che tutto debba essere preso per quello che è. Questa è una competizione che sostanzialmente non è che importa di vincerla o di non vincerla, però serve per fare esperienza, per maturare e per consolidare delle esperienze, quindi prendiamola così, insomma. Poi comunque sì, prendiamola comunque, così, anche se il direttore G, io non so. Siamo in semifinale, comunque. Ecco, non so fra un anno come si possa immaginare, mi viene in mente che i giocatori della Juventus arrivino con maggiori energie rispetto ad oggi. La Juventus progetta una stagione da protagonista in Italia, progetta una stagione per arrivare il più possibile avanti, se non in fondo in Champions League. Ho l'impressione che lo schema e la fotografia saranno abbastanza simili, con in più un anno sulla carta d'identità, ad esempio di Pirlo, ad esempio di Barzagli, che non sono certamente due ragazzini. Io credo che da questo punto di vista, ma mi sembra anche di leggerlo tra le righe, Prandelli sia un po' preoccupato di quello che ha scoperto, e anche il cambio di modulo, poi vedremo a partire da settembre se si tratta di un cambio definitivo o meno, siano la fotografia di una scoperta che ha fatto anche lui in queste ultime settimane. Beh sì, io credo che comunque siano dei riscontri oggettivi, dei riscontri concreti che sfuggono solo a chi è stolto, insomma anche l'uomo comune si rende conto di qual è la nostra situazione, figuriamoci il CT che comunque ha sotto mano la squadra tutto l'anno, perché lui viaggia tutto l'anno per vedere come stanno i suoi giocatori, insomma ne ha piena coscienza. Consideriamo anche che ci sono dei giocatori o che non sono presenti come Osvaldo, o che sono stranamente confinati ai margini come El Shaarawy, che magari tra un anno possono dare qualcosa di più, vediamo. Tutti convocati. Stasera abbiamo fatto una fatica pazzesca, il clima è veramente qualcosa che dobbiamo affrontare, perché è veramente difficile. Noi ci siamo trovati sotto i 2-0, i primi 25 minuti non avevamo probabilmente capito cosa dovevamo fare, poi abbiamo rimesso in piedi la partita e poi ci siamo abbassati troppo, non perché abbiamo pensato di difendere il risultato, ma perché non avevamo benzina, abbiamo recuperato, quando riuscivamo poi a spingere abbiamo avuto ancora il coraggio di farlo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per gli sms. C'è un amico che dice: per favore spiegate anche che il rigore per il Giappone non c'era, che il 2-0 era irregolare, perché non dite tutto? Alessandro di Finale Emilia, perché direttore Oreggia, probabilmente il risultato è l'ultima cosa che conta in questa partita ed è molto più interessante analizzare quelli che sono i riscontri del campo al di là degli episodi. Potete scriverci anche su Twitter, @ tutti convocati. Noi siamo in trasferta oggi, siamo ospiti di Pitti Uomo a Firenze. Vittorio Oreggia, per chiudere il discorso sulla nazionale, turnover sì o no contro il Brasile? Io lancio una provocazione, considerato che questo è un test importante in vista del mondiale, sarebbe stato forse più saggio il turnover farlo prima e poi affrontare Brasile e Spagna, che sono due nazionali con cui dovremmo confrontarci se vogliamo andare davvero avanti fra un anno, al meglio delle nostre condizioni, con la formazione titolare. Direttore, beh, sai, io ti posso dire qual è il rovescio della medaglia: magari con una formazione fortemente alternativa non saremmo riusciti a battere il Giappone a qualificarci, non lo so. Io dico che comunque contro il Brasile noi non possiamo buttarla, insomma, sullo sperimentale e mandare in campo una formazione troppo alternativa. Ma io credo nemmeno con la Spagna, nemmeno eventualmente con la Spagna in una semifinale, come si fa? Del resto, insomma, siamo l'Italia e come gli altri, cioè non è che gli spagnoli non hanno avuto un campionato duro come il nostro e sono stati gli ossi capuani tutto l'anno, neanche i brasiliani, in cui tre quarti gioca in Europa, insomma, probabilmente è un problema nostro se ci presentiamo a questo appuntamento con le batterie scariche, insomma, io credo che anche per una sorta di orgoglio nazionale, Italia-Brasile o Brasile-Italia deve essere giocata ai massimi livelli, poi si può anche perdere, per carità, ma non si può, insomma, teniamo alto il livello, ecco. C'è chi come Maurizio da Torino al 349-238-6666 chiede com'è possibile che a fine stagione i nostri avversari volino se i nostri metodi di allenamento sono sorpassati, cioè se bisogna fare una riflessione anche su questo. Io non credo. Credo anche che conti molto la carta d'identità della nostra squadra, direttore. Diciamo che noi, i nostri giocatori, tranne alcune rare eccezioni, non sono più di primo pelo e quindi pesa. Fatalmente i recuperi sono diversi. Non dimentichiamo sempre che si giocano tre partite in una settimana, Io mi domando Pirlo come faccia a recuperare. Ecco, io ti dico, col Giappone probabilmente avrei tenuto a riposo Pirlo, visto che c'era un giocatore da far riposare. Ecco, non lo so, cioè, questa è la mia riflessione, però io faccio giornalista, Prandelli di mestiere fa l'allenatore. E soprattutto li vede tutti i giorni. L'ultima battuta e poi ti ringrazio. Sulla Juventus, oggi la stampa inglese scrive che Higuain se ne va all'Arsenal. Tu che hai il polso della situazione dirigendo Tutto Sport, c'è un po' il timore che quest'estate finisca sulla falsariga dell'ultima, cioè con la Juventus a caccia del famoso top player e alla fine costretta a ripiegare? Guarda, il timore oggettivamente c'è. Io mi auguro che la storia sia maestra di vita e non si finisca al Bettner qualsiasi. Cioè al 30-31 agosto a prenderne uno purché sia uno. Bravo. Grazie Vittorio Reggia. Grazie a voi. Grazie Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. E allora partiamo da Cosenza. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Niente, io volevo dire, sono d'accordo col direttore del Tutto Sport, perché è inutile dare alibi a questa nazionale. La questa nazionale, come ha giocato ieri, non ha gioco, punto. E Pirlo, dopo 10 minuti, andava tolto, sono d'accordissimo. E un altro che proprio ha rivisto, sicuramente, è Rossi, al di là del De Rossi, al di là del gol che ha segnato, ma sono episodi, non possiamo giocare ad episodi. Noi abbiamo vinto una partita non meritata, ad episodi casuali, siamo stati schiacciati nel gioco, non abbiamo un gioco. Sì, siamo stati schiantati soprattutto fisicamente. Quanto al gioco, io concordo, c'è evidentemente un'involuzione da dopo l'europeo, da dopo un anno fa esattamente, Prandelli aveva detto che avrebbe dovuto cambiare qualcosa dal punto di vista dell'impostazione della nazionale, sarebbe stata una nazionale diversa rispetto a quella del ciclo che ci ha portato in Polonia e Ucraina, non soltanto in alcuni nomi. Ho l'impressione che in questo anno, se non per piccoli sprazzi, Prandelli non sia ancora riuscito a trovare il bando della matassa. Speriamo lo faccia nei prossimi 12 mesi. Grazie Marco. Alessandro da Caserta, buon pomeriggio. Salve, buongiorno. Prego. Io al di là dei metodi, che probabilmente non sono quelli giusti di recupero, perché insomma tre partite in 7 giorni si fanno anche durante l'inverno, eccetera, eccetera, o al fatto delle motivazioni che parlava prima il suo ospite, le motivazioni di vincere o non vincere, determinati tipi di manifestazioni. Io non so se potete rispondermi, credo che la nazionale, come anche qualche squadra di club in Europa, abbia pochi, come dire, un solo metodo di gioco, un solo sistema di gioco. Tutti i palloni passano per Pirlo. Ieri al Giappone è bastato bloccare con 2 uomini Pirlo per avere poi maggiore fluidità nella loro manovra. Forse avranno anche una condizione atletica un pochettino migliore, l'hanno dimostrato, però dico, noi forse non siamo capaci di cambiare in corsa. Prandelli l'ha provato ieri inserendo Giovinco, ma non è cambiato tantissimo. Vorrei sapere che ne pensate. Io penso che Pirlo si blocca da solo se è in condizioni atletiche come quelle di ieri. Pirlo di novembre probabilmente non ha difficoltà a liberarsi di chi lo marca della nazionale del Giappone. Il problema è che anche il mondiale si giocherà a giugno e quindi le condizioni fisiche di Pirlo queste saranno. L'Italia ha il vice Pirlo, è Verratti. Prandelli, con un gesto di responsabilità, l'ha lasciato all'Under 21 per la fase finale del campionato europeo. Da settembre certamente Verratti tornerà nel gruppo e io credo certamente sarà nella rosa dei 23 speriamo partirà per il Brasile tra un anno esatto. Ecco, io mi aspetto che nei prossimi 12 mesi Verratti abbia spazio per prendere in mano questa nazionale. Prandelli lo ha detto più volte, ritiene Pirlo imprescindibile, ritiene l'architetto su cui è costruito tutto il progetto della sua Italia. Io credo debba rendersi conto nei prossimi 12 mesi che o mette Verratti nelle condizioni di poterlo sostituire anche soltanto per dargli fiato in 1 o 2 partite, oppure si troverà probabilmente l'estate prossima con lo stesso problema di oggi. Davide da Lodi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Volevo Prego. Solo fare una accennazione su quello che avete appena detto sulla nazionale, nel sì. senso che la differenza si è movita, ma secondo me la differenza di quanto fa Conte della Juve non la protegge abbastanza. Cioè, 2 difensori invece che 3, e senza un Vidal comunque soffriamo. Sì, Davide, la fermo perché la qualità del collegamento è pessima. La ringrazio comunque. Tra l'altro c'è da sottolineare che ieri sera l'Italia giocava con praticamente solo De Rossi come incontrista e probabilmente anche questo è un lusso che in questo momento la nazionale non si può permettere, soprattutto, e torniamo sempre al discorso della condizione fisica, se c'è la difficoltà a reggere il ritmo degli avversari. Però è anche vero che Prandelli ha in mente un modulo diverso per la nazionale, un modulo che non sia quello usato in queste ultime partite, e quindi probabilmente ci saranno anche meccanismi differenti. Tutti convocati. Il problema sta nel prosciutto crudo bloccato in dogana, quello è il nostro doping, ha scritto Marco al 349-238-6666. Siete in tanti che state commentando la partita di questa notte tra Italia e Giappone e non è piaciuta a nessuno tranne che a Maurizio, che ha detto è stata molto più bella la partita di ieri sera, altro che Messico 70. Di quella notte mi ricordo i primi 90 minuti noiosi. Hai ragione Maurizio, ma la mezz'ora dopo è stata davvero da godere. E poi Antonio da Brescia, anche il Brasile ha vinto ma non meritava, in 3 occasioni il Messico poteva segnare e correva al doppio. Evidentemente la fatica pesa per tutti, poi loro hanno Neymar e questa partita l'hanno vinta soffrendo sinceramente meno di noi. E poi credo che il Messico sia comunque una squadra che se arriva al mondiale fra un anno potremo trovarci anche più avanti, perché tradizionalmente è così. E poi Alberto, perché non spiegate che è successo quello che succede sempre, cioè l'Italia se non ha l'acqua alla gola non corre? Sono le motivazioni e l'orgoglio che mancano in queste competizioni. E poi ancora, sono Claudio, vincere giocando male è un buon segno. Massimo da Udine, perché non facciamo i complimenti a Zaccheroni? Glieli facciamo volentieri, perché Zaccheroni ha messo in campo un Giappone che ha giocato davvero bene, ha cancellato la brutta figura fatta con il Brasile, aveva detto c'era un problema di fuso orario e mi sembra che i 90 minuti visti contro l'Italia confermino che aveva ragione. Comunque il Giappone meritava certamente di vincerla questa partita. 800 24 00 24, Maurizio da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, volevo fare due considerazioni. Una per quanto riguarda l'Under 21 di due giorni fa. Sì. Io non sono un tecnico, però guardando la partita mi sembrava di vedere una squadra che sapeva giocare a pallone, aveva le basi stop, palleggio, normale nel calcio e poi anche la corsa, e un'altra che non aveva né uno né l'altro. Volevo sapere cosa ne pensava lei, se per caso non servirebbe insegnare ai calciatori giovani i palleggiare, gli stop, queste cose qua, anziché saper fare le interviste. E poi la partita di ieri, sentivo parlare l'altro giorno di Pirlo, i complimenti, la centesima presenza in nazionale con il gol fatto al Maracanà. Bisogna privilegiare queste cose o bisogna far giocare per esempio Verratti in nazionale in previsione dei mondiali? Ma io su Verratti ho parlato prima, io sono d'accordo con lei, poi ritengo che sia stato un gesto anche di buon senso da parte di Prandelli lasciare Verratti all'Under 21, che comunque si giocava il lavoro di 2 anni, e quindi è giusto anche che non fosse spogliata completamente dei suoi uomini. Già mancavano De Sciglio, Balotelli e del Sharawi, però spero che nei prossimi 12 mesi Verratti abbia spazio. Quanto al giudizio su Italia-Spagna di Under 21, io non credo che Verratti o Insigne siano giocatori, o anche Florenzi siano giocatori che non abbiano una tecnica di base. Semplicemente quelli della Spagna sono più forti, e non è un caso che metà della squadra titolare della Spagna Under 21 abbia passato il mese di maggio a giocare la semifinale di Champions League, la finale di Europa League con il Benfica, a vincere la Premier League con il Manchester United, come nel caso di De Gea. Io credo che siano loro fuori portata. Poi noi abbiamo i nostri difetti, ne abbiamo parlato ieri con Arrigo Sacchi, avete sentito che cosa ne pensa, io lo sottoscrivo, però bisogna anche dire che ogni tanto incontri qualcuno che semplicemente è molto più forte di te e probabilmente è molto più forte anche di tutti gli altri. Grazie comunque, io ringrazio e saluto anche Carlo Laudisa. Ciao Carlo. Ciao, buongiorno a tutti. Collega della Gazzetta dello Sport. Interessante, vero? Ne abbiamo parlato ieri con Arrigo Sacchi. Per esempio, perché noi siamo sempre bravissimi ad autoflagellarci, ma Thiago Alcantara, che con Guardiola nel Barcellona aveva un ruolo da quasi titolare, quest'anno la Liga l'ha vista dalla tribuna quasi, non ha mai giocato. Quindi non è che poi siamo solo noi a non far giocare i nostri talenti, anche in Spagna può accadere questo. Eppure loro sono partiti prima di noi e sicuramente hanno lavorato non bene, benissimo. Io voglio dire il lato positivo, cioè in finale ci siamo arrivati, nelle ultime edizioni no. Quindi vuol dire che stiamo migliorando. Ah, sicuramente stiamo migliorando e secondo me finalmente da un paio di anni, e diciamo è l'eredità del disastro del Sudafrica 2010, abbiamo comunque cominciato a costruire un progetto a livello federale. Poi può esserci stata anche qualche caduta, qualche nome sbagliato, però ad esempio ho l'impressione che il gruppo di Arrigo Sacchi, perché non si tratta soltanto di Arrigo Sacchi, lui ha portato dentro la federazione anche una serie di uomini che conosceva, che avevano lavorato con lui o che erano stati allenati da lui, beh, io credo che quel gruppo stia costruendo un progetto importante. La finale dell'Under 21 è la punta di diamante di quel progetto e probabilmente non si poteva andare oltre, ma c'è stata la finale dell'Under 17, è stata creata l'Under 15 che non esisteva, ne abbiamo parlato ieri con Arrigo. Non bisogna buttare via tutto. Che comprovare, stanno arrivando dei talenti importanti, perché c'è un'onda verde ancora migliore di quella attuale. all'orizzonte. Assolutamente. Torniamo alla strettissima attualità, Carlo. Io ho letto questa mattina di smentite ovunque sull'incontro tra Galliani e Di Natale, a proposito di giovani talenti, questo sì. Senza nulla togliere sì. A Totò. Sì, però è anche Totò è l'anziano che da 4 anni segna di più di tutti, no? Quindi evidentemente è un vecchietto stagionato, ma di qualità. Ma ora, al di là delle smentite, non smentite, poi questo è una notizia del collega Pasotto, io vi rispondo volentieri, ma lui sarebbe più preciso a riguardo. Certamente. Vi posso assicurare che ieri le informazioni che sono arrivate da Udine sono state circostanziate, per cui vediamo cosa accadrà nelle prossime ore sul rinnovo di Natale e poi ne riparleremo, perché quelle che sono oggi delle smentite decisissime, se nascesse un caso a Udine, io credo che l'interesse del Milan poi andrebbe riaggiornato. A oggi incassiamo le smentite, ma vediamo cosa accadrà più avanti. E anche il gioco del mercato, era impensabile che questa mattina con la notizia pubblicata con così tanta evidenza qualcuno nell'entourage del Milan o del giocatore si mettesse a confermare tutto. È il gioco del mercato, attendiamo qualche settimana con pazienza e sapremo invece quanto dobbiamo aspettare per sapere di Tevez, perché ad esempio anche sull'argentino ci sono due correnti di pensiero, una pro Milan e una pro Juventus. Sì, sono tutte queste voci dal cielo che fuggono. E evidentemente io ho la certezza che Tevez stia tenendo tutti in stand-by, per cui quando il Milan comunque non smentisce di avere un accordo con la Pash e la Juve lo mette in evidenza, io non mi limiterei a questo, no? Perché è chiaro che poi bisogna fare conti con il Manchester City, che ha fatto un prezzo di 15 milioni. La Juve oltre 10 non va, quindi al momento Tevez non arriva in Italia, quindi io temo che la partita sia lunga, perché essendo molto chiari, o effettivamente la Juve, che è ancora in corsa per Higuain, perché quello è un gioco a incastri, il Real Madrid sta aspettando di annunciare l'allenatore, ma soprattutto sta aspettando di chiudere la trattativa con Liverpool per Suarez, ed è stato chiarissimo Florentino Perez con Agnelli e Marotta quando si sono incontrati: non ci sediamo a trattare fino a quando io avrò venduto Suarez. E quindi la Juve aspetterà Higuain o deciderà in questa settimana di muoversi diversamente, spendere 15 milioni per Tevez e chiudere la partita lì. Se posso, Carlo, permettermi un consiglio che chiuda sì. Su Tevez, perché ho l'impressione che Higuain abbia molto più mercato anche fuori dall'Italia e poi se si muovono le inglesi siamo poco competitivi, c'è poco da dire, purtroppo sicuro. Questa infatti, è la situazione del nostro calcio. Il rischio concreto ma riguarda anche Tevez, la sì, non c'è dubbio. Che né Higuain né Tevez in Italia è altrettanto concreta. Io però vi confermo che Higuain sta aspettando la Juve, nonostante dall'Inghilterra arrivino notizie, nonostante le notizie che arrivano dall'Inghilterra di un'intromissione dell'Arsenal, non mi risulta che questo feeling con l'Arsenal sia così evidente, quindi ecco perché ancora un minimo di cautela la terrei sull'argomento, perché vedo una Juve che contrariamente all'anno scorso è comunque molto più ben posizionata, perché l'anno scorso in realtà non aveva seminato con la stessa cura con cui ha fatto in questi mesi, perché sia su Higuain, sia su Tevez, sia su Jovetic ha evidentemente un dialogo ben avviato con i giocatori. Possiamo dire, Carlo, che probabilmente l'esperienza insegna. Ti chiedo 30 secondi, flash, sì o no, ho un paio di domande da farti. La prima riguarda Belfodil, filtra che Silvestre non sia convinto di trasferirsi a Parma. Ti chiedo sì o no se un eventuale no di Silvestre mette in dubbio tutta l'operazione. Questa operazione è in forte dubbio con queste modalità. Ma io ho la certezza che alla fine l'Inter voglia Belfodil e lo prenderà. Magari cambieranno le contropartite tecniche, anche Cassano evidentemente, che ancora sta ascoltando il Genoa, e quindi vedremo. Però Belfodil arriva in qualche modo all'Inter. L'altra domanda, secondo me lo scambio Nocerino Alvarez non sta in piedi, sì o no secondo te? Io aspetto tempo anche su questo, perché sono due giocatori che non possono rimanere nei rispettivi club al momento, per motivi diplomatici è uno scambio impossibile, però riparliamone fra qualche settimana. Tutti convocati. E Cerci come va a finire? Ci scrive un amico al 349-238-6666, va a finire che sono ancora lì a litigare Torino e Fiorentina, vediamo, hanno tempo fino alle 19, altrimenti si va alle buste. Roberto da Brescia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Prego. Per avermi chiamato, i complimenti. Mi permetto però di dissentire con quello che ha detto il direttore Origia e anche lei circa le qualità dei nostri giocatori. Mi spiego. Ieri ho visto dei giocatori giapponesi, e cito Kagawa, cito Honda, cito Endo, con una padronanza tecnica, con una capacità di uscire dal pressing dei nostri giocatori che è decisamente superiore alle qualità tecniche dei nostri. Vi spiego, io sono juventino, ho visto comunque Marchisio sbagliare due o tre passaggi che i giapponesi non avrebbero fatto. Poi dissento anche con lei sul discorso che ha fatto per quanto riguarda Verratti, che è sicuramente un investimento per il futuro. Ma quando lo metto in paragone i vari Thiago Alcantara, i vari Checo che ho visto giocare con una padronanza tecnica eccellente, dico che secondo me, dal mio punto di vista, abbiamo ancora tanto da fare. Lei sì, anche se Roberto, Paris Saint-Germain ci ha creduto, Ancelotti gli ha fatto fare 27 partite di Ligue 1 da titolare, 4 partite di Champions League, sono numeri comunque importanti all'età di Verratti, che veniva, non dimentichiamolo, dalla Serie B italiana e da una buona, ottima, straordinaria stagione con il Pescara, ma lì ci fermavamo, e quindi secondo me Verratti ad esempio è uno di quegli esempi che può essere accostato a questi nomi che lei ha fatto, che ha fatto Carlo Laudisa. Antonio da Perugia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie per la convocazione. Delle considerazioni. Prego. Veloci. Che la Juve facesse bene a trovare un altro DG, perché Marotta, con tutto rispetto parlando, va bene per una realtà come la Samp, ma non per la Juve. Non a caso quei pochi acquisti sono stati fatti azzeccati dopo l'arrivo di Conte, e quindi l'allenatore a volte fa anche la differenza, visto gli ultimi due settimi posti. E seconda considerazione, a questo punto, per evitare figuracce come abbiamo fatto ieri con il Giappone, riduciamo le squadre del campionato, così si arriva a delle manifestazioni importanti come l'Europeo l'anno scorso, e siamo arrivati in finale senza benzina. Adesso siamo senza benzina, facciamoci furbi, visto che non abbiamo giocatori primo pelo, come avete detto. Così i campionati iniziano prima, finiscono prima e si ricaricano le pile. Tutto qua. Sì, io penso, Antonio, due cose. Su Marotta penso che bisogna dargli i meriti, così come bisogna dargli le colpe per gli errori, e il discorso sul peso dell'allenatore vale anche in negativo e non solo in positivo. Evidentemente quello che è stato sbagliato prima è stato sbagliato anche su indicazione di chi c'era in quel momento in panchina. Quanto alla riduzione delle squadre nel campionato, sfonda una porta aperta, ma non si farà nulla almeno fino al 2015, perché il format della Serie A è stato venduto alle televisioni così com'è, e quindi non cambia nulla. Io ho l'impressione che non cambierà nulla nemmeno dopo, perché poi i presidenti hanno interesse a massimizzare i guadagni, hanno anche ragione dal loro punto di vista. Parliamo di pallacanestro, parliamo con Coach Peterson. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Coach Peterson, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ciao amici sportivi. C'è qualcosa di unico nello scudetto che ha vinto ieri sera a Siena, al di là dei numeri, del fatto che è il settimo consecutivo, l'ottavo in 10 anni, però questo ha davvero il sapore dell'impresa, visto quali erano i presupposti di partenza. Well, assolutamente, loro hanno perso Simone Pianeggiani, il coach di 6 scudetti in 6 anni, hanno perso 8 campioni, veterani di tante battaglie come Stone Rock, Kaukinis e diverse altre, Michaela, Bokeh, Anderson, Lavrinovic e tanti altri giocatori, 8 in totale, un budget ridimensionato e le altre cose, però hanno sempre Ferdinando Minucci che è il big boss lì, che è lì in ufficio ogni giorno a lavorare sulla squadra, mentalità imprenditoriale come si dice, ok, quindi non è lì per passaggio. Poi Luca Banchi era primo anno come capo allenatore a Siena, però 6 anni precedenti, le 6 scudetti, lui c'era come vice allenatore, quindi continuità in questi due ruoli, 3 giocatori anche diversi lì, David Moss, Thomas Ress, e anche Carreretto, Marco Carreretto, quindi qualche nucleo di giocatori del passato. Poi buonissimo scouting, cioè valutazione di giocatori, ingaggi di giocatori che magari erano anche non apprezzati altri, cioè Jennings, tanto per dire, che era con Marco Crespi a Casale Monferrat, Crespi è il vice allenatore a Siena, per lui nessuno avrebbe detto Jennings protagonista come è stato alla fine. Bobby Brown molto indovinato, ha vinto lo scudetto un po' come Larry Wright, tanto per dire, quindi hanno fatto veramente un ottimo lavoro e soprattutto hanno inculcato in tutti la cultura della vittoria, che non è una cosa facile, di come vincere, di come fare le cose, di come affrontare gli scudetti, i playoff, le partite difficili, il rimonte, altre cose. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Una cosa non facile da fare, soprattutto nell'arco di pochi mesi. Io credo che molto di questa chimica sia nel lavoro di Luca Banchi, che oggi ha detto che lascia Siena, è dato in arrivo sulla panchina di Milano. Ho sentito molti addetti ai lavori dire che Luca Banchi ha dimostrato già di essere migliore rispetto a Simone Pianigiani. Cosa ne pensi? Wow, questo è difficile dire. Ok, Pianigiani per me è stato un grandissimo allenatore e lo è ancora, vediamo in nazionale, però è chiaro che Luca Banchi, un allenatore già da diverse esperienze, si è dimostrato pure lui di essere un grande allenatore, cioè ha gestito tutto con grandissima calma, con grandissima sicurezza, un bel gioco, una bella difesa, mescolato le carte quando doveva, zona qui, zona pressing là, zona mista qua, match up là, cioè ha fatto tutto quello che potevo fare per vincere sia in Coppa Italia, vinto la Coppa Italia e lo scudetto, ha fatto top 16 di Eurolega e quasi ha fatto il quarto finale, quindi su Luca Banchi solamente le grandi conferme di lui come grandissimo tecnico. Certamente, coach, se vogliamo trovare, poi ti ringrazio e ti saluto, l'altra faccia della medaglia, anche ieri sera c'è stato un clima esasperato, in molti dicono e oggi lo scrivono, i playoff con le serie del meglio delle 7 vanno bene ma stressano anche l'ambiente, i tifosi, io dico che certe scene si vedevano anche 20 anni fa e tu ne sei testimone, però volevo capire qual era il tuo pensiero. Allora, innanzitutto faccio 2 commenti se mi dai il tempo. Uno, Roma, cioè, ovviamente sono un po' giù oggi perché hanno perso il finale scudetto, però il bicchiere è mezzo pieno lì. Un anno fa non si sapeva si iscrive a Roma o non si iscrive a Roma al campionato. Totti rimane, Totti va via, da Tommy rimane, di Tommy va via. Budget, quindi c'è, applausi anche c'è. A Roma. Esatto, quindi applausi anche a Roma, a scene aperte, perché loro, mentre Siena ha dato una lezione a tutti di cos'è la cultura della vittoria, Roma ha dato lezione a tutti cos'è la cultura del cuore. Loro non sono la seconda squadra di questo campionato per talento sulla carta, ok? Loro forse sono 4, 5, 6 squadre meglio di loro, forse anche 8, ok? Però loro non sono secondi a nessuno. Sono andati oltre i loro limiti. Coach, ti devo salutare però perché siamo in chiusura, tanto avremo tempo di riparlarne. Ciao a coach Dan Peterson, noi abbiamo finito qui, io ringrazio Franco Piantanida, autore di questa puntata, Valerio Rocchetti a Firenze, Valeria Bernardi a Milano, Valentina Magri che è qui con me in redazione, l'appuntamento è per domani sempre alle 14, tutti convocati.